nel nostro La ultimo domanda è se si può incontro. essere a favore della mobilità sostenibile e Perfetto. razzista. Ecco, era Era quello proprio di precisamente l'argomento cui stavamo della quale parlando siamo andati, che poco poi magari possiamo parlare. Radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Ci sono qui vicino a me Giuseppe, Arianna di Frontiera Sud. Grazie intanto per questo tavolo e questo bellissimo spazio. Siamo a Calvanico, la residenza rurale incartata, e iniziamo con il Metis Fest. Cosa dobbiamo aspettarci dai dibattiti, dai tavoli tematici? Come si è strutturata l'idea del festival? Facciamo anche un'introduzione su come si è sviluppata l'idea di Frontiera Sud. Arianna prima ci ha raccontato anche l'evoluzione di Frontiera Sud, che è un progetto complesso, denso. Parlate voi, insomma, di attori, protagonisti. Grazie mille intanto per essere venuti fino a qua, per aver fatto questa lunghissima camminata dal Cilento. Fubala ci ha invitato, insomma, a contribuire a questo evento. Noi abbiamo pensato di poter mettere l'expertise di Frontiera Sud e anche, la mission di Frontiera Sud al servizio di questo festival. E quindi abbiamo pensato di curare i contenuti scientifico-culturali di questo festival per quanto riguarda la costruzione dei tavoli tematici e i dibattiti, attraverso il quale noi proviamo a mettere assieme varie associazioni del terzo settore del territorio salernitano sulla scorta di un momento e di un movimento che già si sta iniziando a costruire a Salerno, che è la Salerno Meticcia, il movimento antirazzista salernitano, che si incontra, propone manifestazioni. Noi stiamo proponendo, sulla scorta di questo movimento, quindi partendo anche da questa base, di ampliare il raggio d'azione di questo, diciamo, di questa base che si è creata, e provare a mettere a terra delle istanze attraverso un metodo. Quello che cerchiamo di proporre con questi tavoli è la costruzione di un metodo intersezionale. È una parola che oggi va abbastanza di moda nei movimenti, va abbastanza di moda nei dibattiti scientifico-accademici, eccetera, eccetera, che però probabilmente si è persa un po' di vista, e soprattutto la salienza di questo termine. Noi viviamo nel Cilento, non l'avevamo mai sentita, Ecco, cioè non è arrivata lì. il termine è saliente, perché indica, diciamo, l'intersezione tra genere, razza e classe nella costruzione di un'istanza. Che significa che un movimento antirazzista non può non essere femminista? E che significa che un movimento di classe non può non essere antirazzista? Stiamo provando a mettere assieme diverse soggettività che stanno su questo territorio, provare a metterle insieme, provare a farle dialogare, provare a costruire poi delle piattaforme, dei modi di pensare e di agire su determinate questioni che abbiamo identificato. Abbiamo identificato questioni ampie. Sono due, una è scuola e istruzione, l'altra è trasporti e mobilità. Sono due macro aree su cui si potrebbe parlare per anni. Frontiera Sud, diciamo, è la scusa per mettere a terra questa piattaforma. Noi non ci intestiamo niente, noi facciamo parte di questo processo, e la forma che prenderà questo processo e queste istanze che si andranno a costruire sono tutte da concordare, sono tutte da decidere insieme a tutte le altre associazioni che verranno qui. Noi ci facciamo promotori di questa questione perché abbiamo l'opportunità di farlo, perché volevamo riunire delle associazioni sul territorio, che per noi è fondamentale questa cosa, fare rete, costruire rete. Il solo fatto che voi siete venuti dal Cilento e siete venuti fino a qua per fare questa cosa, a noi ci riempie d'orgoglio e ci dà la misura che quello che stiamo facendo probabilmente va nella giusta direzione. In questa prospettiva ci interessa la questione della piattaforma. Cosa faremo da qui a un anno? Insomma, adesso mettiamo le basi, mettiamo a terra le basi. Abbiamo già deciso che vogliamo fare qualcosa, dobbiamo vedere chi ci sta e come facciamo. Stiamo disturbando Giuseppe e Arianna a ridosso dell'inizio dell'evento, per cui è chiaro che la domanda quali sono i progetti per il futuro è quella proprio più sbagliata, perché chiaramente il futuro inizia fra 10 minuti con il dibattito, con tutto quello che potete sentire di sottofondo e che non potete vedere qui attorno, ma è davvero uno spazio accogliente. Frontiera Sud è la scusa, anche il collettore di questo motore che si vuole provare a far camminare. Arianna mi raccontava prima di come vi siete conosciuti, poi alla fine persone che arrivano da esperienze molto diverse, da territori molto diverse. Con Arianna, vabbè, ci conosciamo, quindi più volte scherziamo sul fatto di quanto lei sia una migrante arrivata dalla pianura padana, ed è una terrona acquisita, fortunatamente. È l'ulteriore conferma che le migrazioni aiutano ad arricchire il territorio. Siete in tanti, ho visto anche sul sito internet che vi invitiamo a visitare, lì ci sono le prime informazioni per chiarirsi le idee. Però siete appunto persone con formazioni e provenienze molto diverse. Qual è il momento prima della scusa, il Big Bang? Secondo me, io sono un'assidua frequentatrice di questa radio, nonché ascoltatrice, quindi in premessa volevo capire qual era la canzone che ci dedicavate, insomma, per questa intervista e per questa... La voglio veramente conoscere. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. No, per me quello che magari può rispondere più appieno a questa domanda è proprio il concetto di frontiera. È proprio il termine che abbiamo voluto utilizzare per sostanziare questo nostro incontro. Nel senso che abbiamo voluto anche organizzare questo festival in un luogo che comunque è di una provincia, ed è come la maggior parte, insomma, del territorio del nostro paese, che è prevalentemente fatto di provincia e di periferia, e quindi sono luoghi di frontiera, sono dei crocevia dove le persone si vuole che si scontrino, ma in realtà si incontrano. E quindi quello che abbiamo fatto e quello che ci ha permesso anche di mettere a frutto questo evento e di incontrarci è proprio stata la periferia, che sta sia all'interno di noi nei nostri, diciamo, percorsi migratori personali, ma poi, diciamo, la sociologia delle migrazioni è una materia che tutti abbiamo studiato, tutti abbiamo incontrato e prevalentemente ci ha formati nell'affrontare determinate questioni, e l'abbiamo voluta arricchire oggi anche con tanti altri linguaggi, che sono la musica, che è l'arte, che è il dialogo tra le persone, che poi approfondiremo all'interno dei tavoli tematici. Questa frontiera per noi era emblematica perché, appunto, sebbene oggi le frontiere siano qualche cosa da espellere magari dalla società, i luoghi di provincia siano i luoghi più abbandonati, in realtà è lì che nasce la vita ed è lì che nasce in un qualche modo il vero incontro tra le persone. E quindi noi di questo oggi dibatteremo, concentrandoci su alcuni temi che sono pregnanti per quelli che sono i linguaggi delle periferie. Noi li conciliamo molto col tema dei servizi e dei diritti accessibili non solo per le popolazioni migranti, ma per tutte le popolazioni che vivono, diciamo, in un contesto che non è particolarmente felice sia dal punto di vista sociale che politico che economico in questo paese, di incontri e quindi di confronti, e con associando il tema dei diritti e anche dei servizi, dell'accessibilità ai servizi per tutti e di tutti, vogliamo che questi due giorni siano un luogo di incontro per chiunque intenda parteciparvi. Giuseppe, tu vuoi aggiungere qualcosa? Mi sto rendendo conto che attraverso questo progetto si stanno intersecando competenze, si stanno trattenendo risorse e si stanno attraendo risorse. Noi partecipiamo a bandi, proviamo a mettere a servizio la nostra expertise per costruire processi di sviluppo sul territorio, e questo secondo me è fondamentale. E il fatto che Arianna sia in Frontiera Sud ne è un attimo la prova, cioè non soltanto rimangono le persone qua, quanti ma riusciamo siete, anche quanti siete adesso? Al momento siamo 10 persone. 10. Siamo 10 persone al momento, sì. Ognuno con le sue competenze specifiche, ognuno che lavora su determinate questioni, e proviamo, insomma, ognuno al nostro modo a dare un contributo rispetto alla mission, che è quella poi di abitare la frontiera e di costruire le migrazioni, come di costruire a livello anche epistemologico le migrazioni come una leva di sviluppo territoriale. Le migrazioni sono parte di un territorio. Noi stiamo dentro a questa contraddizione, oggi la viviamo come contraddizione, e sta a noi, alla nostra generazione intendo, direzionare questo cambiamento epocale. Se ci tiriamo indietro, beh, larga strada è il sovranismo, larga strada a tutte le contraddizioni di questo fenomeno, perché questo fenomeno è contraddittorio, non è il bene o il male, questo non è il compito di darci una forma. E noi stiamo provando a costruire questa sfida, voi state dentro questa sfida. Mettiamoci assieme. Tony, i complimenti li taglieremo tutti perché sono. Grazie di cuore. No, non è un caso essere qui, siamo sicuri che c'è una vicinanza di vedute e anche di territori di provenienza, per cui noi arriviamo da un posto dove le strade sono molto peggiori di quella che abbiamo fatto per raggiungere questo posto. Aree interne estreme, la questione dei trasporti, che è uno dei due filoni che state seguendo, particolarmente interessante, perché in genere invece sembra che la cosa faccia parte della natura del luogo, quella di essere isolati. Come invece però vi ponete voi, cioè cosa state proponendo, che cosa ascolteremo? Noi oggi vogliamo raccogliere le questioni: come vive un migrante che sta in un CAS a Gaiano, frazione collinare del comune di Fisciano, la sua esperienza italiana quando c'è un pullman che passa una volta all'ora? Quello che ci interessa oggi è ascoltare la carne viva delle persone che compongono soggettività politiche e che stanno dentro questo territorio, che vivono le contraddizioni di questo territorio. Noi abbiamo invitato la FIAB, no? Che è la Federazione Italiana dei Ciclisti, fondamentalmente. Vogliamo mettere in relazione la questione delle ciclabili a quella dei migranti che lavorano nella piana del Selec e che si muovono in bici, e agli incidenti che ci sono lì in bici. Vogliamo capire queste questioni qua. Quindi Arianna, chiedo a te, prima dicevate ok, è un'azione anche di classe, alla fine può essere questa la chiave di lettura anche per immaginare altre cose? Sicuramente questo è un tema che, come dicevi tu Giulio, ha una profonda relazione con la questione di classe, e quello che purtroppo sta avvenendo in questo paese è un fenomeno che tende invece ad arricchire sempre di più i privilegi di poche persone, ma ad abbattere quelli che sono i privilegi e i diritti della stragrande maggioranza della popolazione italiana o migrante, senza differenza, perché il concetto di dividere continuamente quello che invece viviamo assieme, come diceva Peppe, sull'autobus, sui luoghi di trasporto, si incontrano tutte le persone che sono unite dalla necessità di avere bisogno di un mezzo di locomozione per andare a lavorare, per sostenere le proprie famiglie, per avere l'accesso e il diritto alla mobilità. Padre Alex Zanotelli, oggi c'è una vicinanza così forte su questi temi fondamentali per la convivenza tra gli esseri umani. Manca ancora questa, forse più che mettersi in crisi, deve mettere in crisi, il ruolo della Chiesa può essere oggi quello di mettere in crisi? Mettersi in crisi e mettere in crisi. Mettersi in crisi perché noi dobbiamo capire che dietro a questo fenomeno della conquista che la tribù bianca ha fatto e ha conquistato il mondo, c'è una consapevolezza della tribù bianca molto chiara. Prima cosa, che la tribù bianca ha la civiltà, siamo noi, ha la cultura, ha la religione, ha la il e la sono nostri. Questo hanno fatto da sottofondo a questi 500 anni, non ce ne accorgiamo, ed è questo che deve lentamente entrare in crisi. Dobbiamo uscire, come tutta anche la Chiesa, deve uscire dalla bolla coloniale. E questo Papa Francesco ci sta davvero aiutando, ecco perché così ha versato anche dentro la Chiesa. È quel grande, secondo me, passaggio, e una volta fatto questo passaggio interno, e sarà duro anche per la Chiesa, dovrà aiutare gli altri, la tribù bianca, a uscirne fuori e a guardare al mondo con altri occhi, con l'umanità plurale. Quali sono, secondo lei, le possibilità che ci sono in Italia? Quale potrebbe essere l'approccio migliore per resistere a un clima d'odio che sembra soffocare ogni possibilità diversa di concepire le relazioni umane? Sì, è interessante da questo quello che dicevi, secondo me, perché quello che sta avvenendo anche in Italia è il rifiuto dell'altro. L'altro chi è? È il vinto, il demonito, il nero, il migrante, il rom, il senza fissa dimora, l'impoverito perché è colpa sua se è povero, e avanti. E sono gli scarti della società, come direbbe Papa Francesco, che vengono guardati con... E questa è la cosa incredibile davvero su cui bisogna lavorare. Qui di nuovo fa parte di quello che stavo dicendo prima, c'è un senso di superiorità in noi nella tribù bianca, per cui tutti coloro che non ce la fanno, che non appaiono in televisione, che non sono qualcuno, sono scarti, sono nessuno. E questo, ed è quello alla fine poi al sottofondo di tutto questo, che io dico è la nostra pazzia collettiva, e stiamo impazzendo collettivamente, non è soltanto di alcuni. Dobbiamo uscirne fuori incontrando l'altro, cioè incontrando l'altro cosa vuol dire? Vuol dire concretamente lì dove io vivo, chi è l'altro? Essere nell'altro, farsi plasmato, prima di tutto interessarsi dell'altro. Chi si interessa dei rom? Ma stiamo lottando adesso per i rom di Giuliano, sono quasi 2 mesi sotto questo sole, senza acqua, senza luce, gli hanno tolto anche la luce adesso, ma roba da pazzi, sono 500 persone già sbattute fuori. Incontrare l'altro prima di tutto, lasciarsi toccare dall'altro, plasmare, cioè quello che ecco l'umanità al plurale, cioè ognuno di noi è portatore di una ricchezza. È fondamentale quindi che io mi lasci interpellare dall'altro, mi arricchisca, cioè io devo incominciare a capire, io porto questa sciarpa, guarda, forse l'espressione migliore, che non è la sciarpa della pace, come tutti hai, arriva la pace, no, viene dall'Ecuador, si chiama Wheat Palace, è fatta da un gruppo di un popolo indio che sta lottando per la propria sopravvivenza. E cos'è che ci mandano un messaggio in codice che è bellissimo attraverso questo, da notare una cosa, che qui dentro tutti i colori sono già sbiaditi, questo è importante, ma in ognuno di questi colori, rosso, verde, ci passa un filo rosso. Cos'è il messaggio? Loro dicono: noi siamo un popolo che lotta per la propria sopravvivenza. Noi non siamo la cultura, la civiltà, la religione, siamo una delle culture, una delle esperienze religiose, una delle civiltà. Se tutte le civiltà, le culture, le razze, le esperienze si intersecano, avremmo quello che Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.